vai, abbatterti e vai, ricerca i colori che hai dentro di te. Corri e vedrai che un giorno saprai usare la forza delle tue idee. Usare la forza delle